sera, e la paura della ipocondria, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori del tuo sbalzo d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E tutte le malattie, perché sei un essere speciale, ed io avrò cura di te. Andavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non i fiori bianchi per me, più i loggi di aquila, i miei sogni attraversano il mare. Conosco le leggi del mondo e te non farò volo, supererò le correnti gravitazionali.